ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Oh, caro chef, come stai? Bene, bene, Pier, spero che anche tu stia bene. Io mi devo dire che ho mangiato, mi sono trattato bene questa settimana, spero altrettanto tu. Eh sì. Come iniziamo? Sì. Diciamo che teniamo botta. Oggi è una puntata dedicata al topinambur. Sai che io ero, insomma, così un po' scettico, però. Eri un po' contro, devo dirlo. Però poi ti ho convinto perché hai mangiato un chilo di topinambur tante belle cose intorno. Va bene, in attesa del tartufo bianco, la settimana prossima, oggi ci occuperemo di questo prodotto meraviglioso. Fra un attimo lo scopriremo, però diamo la precedenza. Ricordiamo 349-239-0191, che è il nostro numero per gli SS Oldani, e ricordiamo che il più goloso riceverà il libro di Mangia come parli. Abbiamo veramente un piacere enorme, un onore di avere un grande dello spettacolo italiano, della comicità, della commedia e non solo, dell'arte italiana. E c'è una clippettina? Vai! Adotterete anche voi la zona? No, io adotto un altro tipo di tattica, la B-zona. E che cosa sarebbe la B-zona? È forse la zona per tornare in Serie B? La B non significa B, è B-zona, sta per bis zona, cioè due volte zona. È come se io a lei dicessi bistro. Classifica bistro francese, ma due volte stronzo. Arrivederci. Scena straordinaria, vedi, c'è il bistrò che non è quello francese. Lino, ciao, Lino Banfi, come stai? Ciao ragazzi. Tutto bene? Tutto bene. Allora, sei anche scrittore adesso? Com'è, scusa? Sei anche scrittore, voglio dire, questo allenatore del pallone diventa è stato un capolavoro della comicità e della commedia italiana. Date le mie 11-12 lauree, che ho, ma era giusto che scrivessi qualcosa. No, è carino perché siamo tutti allenatori nel pallone, una frase che si dice da tempo, ognuno di noi si crede mister e non hanno presente il mister vero, mister dei mister, Oronzo Canà. E questo è un libro scritto con Marco Ercole del Corriere dello Sport, che è uscito il 1 ottobre. Siamo tutti allenatori nel pallone, che devo dire è fantastico perché presenta gli aneddoti del film, le interviste ai protagonisti come Aristoteles. Mi spiego se volete solo un attimo. Come è nata questa cosa, perché Marco Ercole venne a casa mia per farmi un'intervista, come tanti giornalisti, soprattutto quelli sportivi, nel caso dell'allenatore del pallone, quando si è parlato di me anche sui giornali di Londra, per via che io hanno detto, e questo mi ha fatto piacere, che già allora ero contro il razzismo dei giocatori, eccetera, eccetera, quindi mi hanno osannato su The Guardian, che è un quotidiano molto importante, certo, londinese. Pare, dici tu che la regina lo legge ogni tanto, speriamo che l'ha letto. E mi ha detto, ma questo è un bravo ragazzo, l'ha pensato. No, ma a parte questa cosa, e allora in quel periodo venne questo Marco Erico, dice, io sono un giornalista sportivo, dico, perché nel senso che fai sport, sei magro. No, sono proprio del Corriere dello Sport, devo fare un'intervista perché sto scrivendo un libro su di te dell'allenatore del pallone. Dico, che cosa viene a fare adesso io a casa mia? Lo faccio io, che c'è bisogno che lo fai tu? Certo. No, io ho fatto le interviste ai giocatori veri, quelli finta, insomma, abbiamo sorriso dalla cosa e dice, allora facciamo una cosa. Non si è mai fatta, si dice a quattro mani, ma di solito si scrive a due mani. Lui con la mano destra ha fatto tutte le interviste a questa gente, cosa che non farei mai perché diventano lunghe, tediose, ognuno sta un'ora a raccontare. Io ho raccontato invece gli aneddoti veri, i successi durante l'allenatore nel pallone, ci siamo divertiti insieme, ogni tanto io dicevo stop, adesso non parlare tu, parlo io, e poi continuo, e lui ha continuato. È venuto fuori un bel prodotto, un'edizione nuova, che si chiama Biblioteca, ma costa poco, questo è il fatto, 10 euro, manco un pacchetto di gomma americana compri. Allora, il mio augurio è che questo libro, in questo periodo, dia la soddisfazione alla gente di dire, ma siccome questa, non so, io devo andare a compleanno di un mio amico, porto invece di portare i fiori che costano 20-30 euro, certo, due libri, li regalo al padrone di casa, per dire, ho speso 20 euro, sono ammiratore di Banfi, così allarghiamo la fascia di passaparola. Senti, le orecchiette come vanno invece? Sono sempre nel tuo cuore? Le orecchiette, bene, perché che insomma portano avanti i miei figli. Poi adesso, dopo tutto ciò che è successo, la riapertura va benissimo perché abbiamo potuto aggiungere i tavoli fuori con l'ombrellone, è più grande il locale, quindi va benissimo, e quello è l'avvenire dei ragazzi. Chef, io lo chef è quasi il marito di mia nipote, insomma. Ah. Ma la cosa invece più bella, se volete, è una novità, perché ancora non è stato detto in pubblico, è che sta finalmente, dopo 4 anni di attesa, esce questo marchio mio di prodotti pugliesi che si chiama Bontà Banfi nei supermercati grandi, ah, GDO, famosi. Dio, la grande distribuzione organizzata, perché la Puglia, chef, qua c'è la nostra Claudia Schiattone che festeggia, perché ha grande orgoglio pugliese. La Puglia è una terra meravigliosa dal punto di vista proprio della varietà, della produzione, delle eccellenze, chef, no? Volevo chiedere, fare una domanda o dare un piccolo suggerimento per valorizzare al meglio l'orecchietta al nostro ospite, per cui l'aggiunta una volta mantecata e cucinata come una classica pasta nell'acqua, poi scolata, condita con un buon pomodoro e magari un tocco di basilico, l'aggiunta di una grattugiata di rafano crudo, che è una cosa naturalmente che ho scoperto nel sud Italia, e credo che possa dare quel quid in più a un piatto così importante, così tradizionale come è l'orecchietta al sugo. Beh, qual è la tua orecchietta preferita, Lino? C'è una... Quella che va di più sul menù Banfiota, scritto, sì, nel mio linguaggio, è alla porca puttana, ah, che sarebbe un po' piccante, tipo puttanesca, insomma. Sì. E questo mi è servito molto, perché è stato carino il fatto che 2 mesi fa, quando tutti i locali erano chiusi, 2 o 3 mesi fa, io avevo fatto comprare per i miei figli una partita di sugo, che ogni sugo contiene 4 porzioni, si possono fare 4 porzioni di orecchiette, ma erano 500 vasetti di vetro. Dico, adesso va tutto a male, non sappiamo. Certo. Quando riapriamo, chiamai il cardinale lemosiniere del Papa, che aveva avuto l'onore di conoscere, e venne lì, mi fece mandare dall'azienda che mi dà le orecchiette a me, ma di Barletta, dico, facciamo un'opera buona, facciamo godere un po' di gente che non può mangiare questo periodo, 2500 porzioni di orecchiette, ah, dato la porca puttana. Bello. E la gente finalmente avrà detto, porca puttana, finalmente mangio. in senso positivo. In senso positivo. Invece la tua orecchietta del cuore qual è? O il tuo piatto del cuore, la cosa che ti manca? Perché insomma tu in Puglia torni, immagino, però, e poi hai ovviamente tutti ma questi... Ma guarda, è strano, non è tanto il piatto, quanto gli odori delle verdure mi mancano, perché mio papà era ortolano, io da bambino ho vissuto l'atmosfera dell'odore del sedano, il finocchio nostro, che sono diversi da vanelli, le pastinache, che sarebbero le carote quelle lunghe, che sono di colore viola, diverse dalle altre. Cioè, questi odori mi mancano. Ogni tanto mi invento qualche cazzetta, vado a Canosa o a Andria, che sono i miei paesi di origine, per sentire l'odore delle verdure. È strano, ma è così. No, ma è bellissimo, chef. Io penso che ognuno di noi abbia, soprattutto poi chi ha vissuto a diretto contatto con il prodotto, no? Per esempio con un papà ortolano e con una terra come quella pugliese, che veramente è un... è profumata, è diversa onestamente dalla vita delle grandi città, no? Cioè, è una grande fortuna. Assolutamente sì, è una grande fortuna che poi ti riporti con i ricordi man mano che vai avanti con gli anni nella vita, per cui ogni volta che riscopri qualcosa di nuovo, di ben cucinato, ti riporta ai tuoi ricordi e naturalmente ti fa stare anche meglio. Lino, siamo tutti allenatori del pallone, eh? Adesso ne compro una quindicina di libri, e grazie di cuore e in bocca al lupo per tutto, e poi ci facciamo una porca puttana quando vuoi tu. Alla grandissima. Ciao, ciao, e fra poco continuiamo con lo chef Oldani. Vi ricordo 349-239-0191 per i vostri SS Oldani e topinambur, fra un po' approfondiamo, perché voglio capire meglio, perché penso comunque che in tanti non conoscano ancora bene questo, che è un ingrediente che può invece regalare grandissime soddisfazioni. Fra un attimo. Mangia come parli, mangia come parli. Ha ragione Pardo. Würstel, senape e bollicine, ottimo. Esatto, esatto. Oppure pizza, pizza bianca romana, bassa, quella bianca, quella che è un po' oliosa, mortadella e bollicine. Io non sono un grande bollicinista, lo sai, chef, ma insomma, lì secondo me invece si esalta nel contrasto. Vabbè, è il dibattito è aperto, è intervenito. Tu più che bollicinista sei un bollitore. Bollitore, sì, sono un boiler, sono absolutely boiler. Allora, abbiamo un po' tralasciato, insomma, Ubi Maior, il nostro protagonista di puntata, il nostro ingrediente che è il topinambur, detto anche carciofo di Gerusalemme, è detto anche rapa tedesca, è detto anche girasole del Canada e appartiene alla famiglia dei tuberi. Fra l'altro vi ricordo, settimana prossima avremo il tartufo bianco, quindi insomma siamo veramente nel cuore dell'autunno. Il suo nome in greco significa fiore del sole. E che ci si fa con questo topinambur, Oldani? Che ci si può fare? Allora, è un prodotto molto particolare che negli ultimi anni è stato rispolverato naturalmente perché ha un'affinità col gusto e il profumo del carciofo, con una lavorazione più veloce rispetto al carciofo e direi anche una resa più importante. Devo dire che nella fine dining, nella grande cucina, questo ingrediente si è inserito qualche anno fa e si utilizza tutto, dalla buccia che viene a volte essiccata, poi fritta, al cuore che viene trattato in mille modi. Può essere servito crudo molto fine, può essere servito al vapore, può essere arrostito, e quando lo si mangia a occhi chiusi ricorda molto molto intensamente il profumo del carciofo. È diventato, ripeto, in questi ultimi 4-5 anni, 10 anni io direi, un ingrediente fondamentale per quello che è la cucina dell'autunno che si appresta ad arrivare per assolutamente l'inverno. E poi ha anche degli elementi, diciamo, di cottura simili a quello delle patate. Vogliamo ricordare i prezzi perché è un nostro focus particolarmente vivo quest'anno, quello insomma di dare un'occhiata anche al portafoglio. Qui siamo 4-5 euro al chilo? Allora, più o meno, anche qui alcune produzioni, le più belle, intorno anche ai 6 euro al chilo arrivano, quelle un po' più piccoline, quando il fruttivendolo ne ha dei più piccoli pezzi, magari in questi giorni li trovi anche sui 3,50-4 al chilo. Io darei il benvenuto a Marco Sacco, chef del ristorante 2 Stelle Michelin, il Piccolo Lago di Verbania, ambasciatore del gusto. Ciao Marco, come stai? Ciao ragazzi, molto bene, sono super in forma. Questo ci fa ovviamente piacere. Senti, è un periodo molto piemontese, noi la prossima settimana parleremo di tartufo bianco, insomma è un momento in cui l'autunno, noi seguiamo tanto la stagionalità, porta in tanti luoghi d'Italia, ma porta con un focus assolutamente particolare alla tua zona. Facci sognare con qualche idea, qualche ispirazione, qualche ingrediente. Ho dei ricordi fantastici perché mia nonna, quando si andava a far fieno, mi portava fuori nei campi, lì c'erano i fiori gialli e là sotto diceva: guarda che tra un po' qui arrivano i topinambori. Quindi si usciva fuori in questo periodo, si tornava, si scavava e si trovava il topinambur, che noi lo consideravamo un po' il tartufo nostro, cioè il tartufo nel nord del Piemonte, il tartufo povero. E perché assomiglia a sta patata, assomiglia a sto tartufo, che poi in realtà è il topinambur. E lo portavamo in cucina, quindi io l'ho scoperto da molto lontano, ancora prima che iniziasse a fare il cuoco. Poi entrando in cucina ho capito che in realtà era molto versatile, si poteva usare in tantissimi modi. Poi ha ragione Davide, sa proprio di carciofo, aggiungerei anche quel pizzico di cavolfiore, no? Ecco, un carciofo che sa un po' di cavolfiore, e si usa tutto. Tu pensa che basta farlo bollire, poi lo scavi un po' e ti fai una crema, lo schiacci leggermente e hai fatto già qualche cosa che somiglia molto a una crema interessante. Io lo uso anche nei dolci perché è molto versatile, quindi con una crema, con un gelato al topinambur che faccio, un crumble, diventa molto interessante. La buccia, tra l'altro, Davide parlava un attimo prima, facendola bollire poi nell'acqua e nello zucchero, la vai a cristallizzare, la fai essiccare, diventa uno snack dolce assolutamente interessante. Ecco, quindi questo è proprio, diciamo così, la base dei prodotti. Senti, autunnali. Vogliamo fare, chiedo scusa a Ferronato, rimanendo in linea con Marco, c'è la terza delle nostre ricette che secondo me in qualche modo si lega a questa idea, Davide, che è il topinambur alla senape, trota in salagione e fave di cacao, e si lega sempre un po' al tuo concetto. concetto dell'attrazione degli opposti, no? Di mescolare cose diverse in cucina. Se la vogliamo sentire, vai. Assolutamente, la diciamo, poi magari ci faccio andare anche un suggerimento da Marco, visto che il pesce d'acqua dolce lui è il primo in assoluto. Allora, sfilettiamo 300 g di trota iridea, quella salmonata, cospargiamo con 30 g di zucchero e 20 g di sale, copriamo con pellicola, lasciamo in forno più o meno dalle 8 alle 10 ore per questo metodo si chiama insalagione. La leviamo dalla salagione, la sciacquiamo leggermente con acqua fredda, la asciughiamo, poi a parte tagliamo in fette di 3 mm più o meno, le teniamo conservate. Per il topinambur o topinambur sbucciamo 150 g di topinambur, li cuociamo in 300 g di acqua bollente con 80 g di zucchero e 2 gocce di essenza di senape. Togliamo dal fuoco, facciamo raffreddare, aggiungiamo altrettanto, quindi un paio di gocce di senape ancora quando questo prodotto sarà freddo, per far sentire ancora di più l'essenza di senape. Facciamo appunto raffreddare, disponiamo nel piatto la trota ben composta, poi i topinambur scolati precedentemente, infine terminiamo con il croccante delle fave di cacao che abbiamo tostato precedentemente in forno. Marco, una tua ricetta veloce con un pesce di lago, in questo caso con topinambur, come ce la suggerisci? Ecco, fantastico. Io userei, e in questo periodo ci sono molto grossi, sono i lucioperca. Quindi il lucioperca tagliato, marinato come intendevi tu, cioè quella per togliere la parte di umidità in eccesso, poi tagliato fine, quindi seguo la tua ricetta, ma poi il topinambur lo faccio diventare una crema, e quindi a quel punto, passandolo a vapore, non mettendolo nell'acqua, ma passandolo a vapore forte per una mezz'ora, pentola a pressione, tanto per intenderci, ma quindi un passaggio veloce di cottura che diventa molto morbido, lo scavi, lo schiacci. Questo, come dire, il lucioperca, che è molto dolce, che è molto carnoso anche, perché la carne è consistente, la tagli fine, la appoggi sopra e dai una bruciatina col cannello leggermente, quindi per dargli un po' la sensazione del cotto non cotto, ed ecco che hai fatto un piatto straordinario, e l'ho legato appunto al toce che scende, l'acqua dolce e la stagione dell'autunno. C'è qualcosa, Marco, di diverso, qualche attenzione particolare nella cucina del pesce d'acqua dolce? Allora, intanto non ha iodio, quindi noi dobbiamo fare attenzione a questo, è molto più delicato, è molto più sensibile, e la cottura va aiutata maggiormente rispetto a un pesce d'acqua di mare. Io faccio sempre l'esempio del gambero: il gambero d'acqua dolce lo metti in bocca, ha una consistenza morbida, delicata, ma molto neutra tra virgolette. Un gambero di Sicilia è basta un filo d'olio, hai fatto tutto. Ecco, quindi la differenza principale sta lì, cioè ha bisogno di una lavorazione maggiore. Ecco, questo è il consiglio che do lavorando con il pesce d'acqua dolce. Poi attenzione, ci sono anche pesci d'allevamento oggi che sono molto interessanti, non è che tutto il pesce deve essere pescato, quindi ragioniamo anche col pesce d'allevamento, etici, sostenibili, grandi vasche, acqua di sorgente, e zero mangimi, zero antibiotici, e lì ottieni un grande prodotto anche allevato. Ecco, io lancerei anche questi messaggi. Mi sembra molto interessante, perché poi, devo dire, il pesce d'acqua dolce, Davide, è una di quelle cose da scoprire, no? In certi casi, nel senso che chiaramente non c'è, a parte alcune zone d'Italia, non c'è tantissima magari cultura, e si può pensare a un prodotto quasi di serie B rispetto al pesce di mare, e non è così invece. No, non è così assolutamente, le parole che ha detto Marco le sottoscrivo, e apprezzo questa cosa nella difesa di un prodotto che fa parte e deve entrare a far parte della nuova cultura e del nuovo approccio al cibo, per cui io sono poi anche l'esempio che lui ha fatto, piccolo ma secondo me molto grande, del lucioperca, che in questo periodo è di grande qualità. L'utilizzo della stagione, l'utilizzo del prodotto, l'utilizzo della qualità e della tracciabilità credo siano alla base del nostro nuovo modo di fare cucina e di progettare i nostri piatti. Quindi grazie Marco per i tuoi suggerimenti. Grazie Marco, spero di venirti a trovare presto. Piccolo Lago a Verbania, il tuo lavoro anche come ambasciatore del gusto. Fra poco ripartiamo, avremo gli SS Soldani, abbiamo ancora due ricette, abbiamo lo spazio news, abbiamo tantissime altre sorprese. Fra poco. Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no. Sei disperato? No, non sono disperato. Sei solo? Non sono solo, c'è una compagna. È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi. Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic. Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti. Cioè, come faccio? Vieni su Telegram, sì? E cerca Off Topic underscore 24. E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina. E faccia un sorriso! Si diverta! Ma no, ma ne... Che la vita già dura poco! Ma no! Ma no! No! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Essere, non essere, questo è il problema. Cosa andare a vedere nel weekend? Cosa arriva nella nostra città? No, Presidente, nave! Non sarà mai che i miei figli... Io lascio l'oltraggio dei miei nemici. Quali sono le prime più importanti? Siamo qua in cerca d'un autore. Cartellone, il rotocalco settimanale sul teatro, seleziona gli spettacoli migliori con interviste ad attori e registi. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.15 su Radio 24, oppure mi potete riascoltare su podcast, una tournée radiofonica per sognare in tutti i teatri d'Italia. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, vi ricordo, fra poco ovviamente gli assassoldani col 349-239-0191, il più goloso riceverà il libro di Mangia come parli. Stiamo dedicando la nostra puntata al topinambur, ma lo sapevi, Oldani, che in Germania vengono utilizzati per produrre dei liquori chiamati topi? Ma insomma, cioè comunque... Assolutamente, il nome non è il più bello da utilizzare, però è trinken. Possiamo bere una... A proposito, Pierre... Sì. Quando abbiamo discusso di questa trasmissione, tu eri un po' contro perché non conoscevi topinambur. Sei d'accordo con me che abbiamo fatto bene a farla? Dobbiamo dirlo ai nostri. No, avrei fatto una puntata sulla cacio e pepe. Però scherzo, no. A parte gli insetti, no. Con gli insetti non li passo. Il topinambur è sicuramente interessante. È chiaro che è interessante, no? Perché comunque è un tipo di prodotto che magari non ha tantissima diffusione a livello nazionale, invece anche attraverso iniziative come questa si può dare maggiore spazio e magari fare un pochino di educazione. Ma tu dici così perché non sei proprio dentro, ma i nostri ascoltatori, che io so che seguono molto bene topinambur, lo conoscono secondo me quasi tutti. Sì, quasi tutti. Però devo dire che io ieri parlavo con il mio amico Carlo Genta, gli ho detto facciamo la puntata sul topinambur e mi ha detto però Carlo Genta è persona evoluta, fra l'altro, però forse non è così addentro alle che rumori fai, che rumori emetti. Ma voi avete sempre la testa nel pallone, per quello che non lo conoscete. Come Lino Banfi prima. Senti, è anche un ottimo digestivo, ricco di inulina, può essere utilizzato come stabilizzante per i sorbetti. Ma in che modo? Assolutamente stabilizzante per i sorbetti, così come altri piccoli prodotti italiani che aiutano a fare della qualità di un sorbetto o di un gelato senza utilizzare prodotti magari chimici. Per cui la polvere, l'estratto di questo prodotto aiuta a dare una consistenza, una cremosità a un sorbetto o a un gelato, per cui è tutto più naturale possibile. Certo, e quindi anche qui ha una funzione che è anche una funzione dal punto di vista proprio diciamo sanitario, di salute. Allora, abbiamo lo spazio news, vai, partiamo, poi fra poco tutto il resto. Vai. Allora, falso Sassicaia per 2 milioni di euro, sgominata una banda tra Toscana e Lombardia. Questa è un'organizzazione che vendeva false bottiglie di vino con l'etichetta Doc Bolgheri Sassicaia, relativa a diverse annate fra il 2010 e il 2015. Insomma, il cibo, soprattutto quando è cibo di qualità e quindi anche con un costo, in questo caso il vino, con un costo importante, può tirar fuori qualcosa di certamente non apprezzabile. Comunque, insomma, la banda è stata sgominata. Il pecorino romano guarda la Cina e l'aumento di latte non fa calare i prezzi. L'export cresce in Europa, in Oriente e in Canada, ma cala negli Stati Uniti. Sono stati conferiti ai caseifici 254 milioni di litri di latte con un più 12% anno. Quindi stagione sicuramente positiva per il pecorino romano DOP. Sai che, insomma, io sono particolarmente legato anche per motivi campanilistici. La campagna 2019-2020 è stata chiusa in maniera soddisfacente. Si guarda la Cina con molto interesse e il consuntivo, insomma, è veramente positivo a tutto tondo, perché non c'è soltanto il consumo interno ma anche quello internazionale. E poi i presidi aperti il 18 ottobre per la festa della biodiversità secondo Slow Food, e io allora do il benvenuto a Piero Sardo, presidente della fondazione Slow Food, per capire meglio che cos'è la biodiversità del cibo, che è un concetto estremamente attuale, estremamente contemporaneo. E io, per esempio, il pallone di Gravina. Ci siamo? Buongiorno a tutti. Ciao Piero, saluto gli amici di Gravina di Puglia, che conosco molto bene. Lì c'è il pallone, che è una cosa straordinaria, come il pomodoro fiaschetto, il puzzone di Moena, il lonzino di fico. Cioè, ogni luogo porta delle eccellenze. 324 in Italia, quindi insomma ce n'è di presidi. E domani, chi ci sta seguendo in replica, c'è questa giornata che abbiamo dedicato appunto ai presidi che hanno sofferto come tutti di questa crisi e di questo lockdown, e aiutarli un po' a rialzare la testa. Oddio, hanno sofferto meno di altri, perché le loro produzioni sono piccole e hanno anche una diffusione locale, quindi se la sono cavata, però indubbiamente hanno perso anche dei contatti con la ristorazione, ad esempio. Quindi domani, diciamo, c'è una serie di presidi, non tutti ma molti, moltissimi, che hanno deciso di aprire le porte, chi vuole andare va, assaggia e sente il racconto di quel particolare prodotto, di quella particolare specie, di quel fagiolo, di quella fava, eccetera, eccetera. Meraviglioso. I presidi aperti, fra l'altro, appartengono, cioè sono parte di un'iniziativa con cui Slow Food partecipa alla Green Week europea, che dura fino al 22 ottobre. È la 13ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che è cominciata l'8 ottobre. Terra Madre è un concetto anche simbolicamente molto, molto importante e molto bello. E quest'anno, fra l'altro, sono 20 anni che i presidi Slow Food vengono celebrati, perché si cominciò, se non sbaglio, proprio nel 2000 con i primi 100 prodotti da salvare. Ecco, quello che vorrei chiedere a Piero è quanto è italiana questa cosa. Cioè, io credo che si mangia bene in tanti paesi al mondo, non è che siamo provinciali, però se c'è una caratteristica del cibo italiano è proprio la varietà di questi presidi, di questa specialità, che rendono il nostro paese straordinario. Insomma, sì, se salviamo i presidi, salviamo il Made in Italy. Anche questa è una cosa che abbiamo scoperto anche noi, non è che l'abbiamo, cioè, ci hanno detto a un certo punto della nostra storia, guardate che questi prodotti sono biodiversità. Cioè, è strano dire che il pallone di Gravina è biodiversità come la foca monarca o certo, come la tigre della Siberia, ma lo è. Però è così, perché poi a scendere dal pallone di Gravina c'è una razza, c'è uno stile di allevamento, c'è un metodo, c'è un pascolo, c'è un bosco, e quindi tutto si lega e tutto si tiene assieme, come il nostro pianeta, insomma, che è un grande ecosistema unico, dove tutto si lega, tutto si tiene. E torniamo, e quindi, Davide, a quello che diceva Marco Sacco prima, cioè i chilometri zero, i metri zero, in un momento come questo, che è un momento di, se possibile, ancora minori certezze dal punto di vista psicologico, delle inquietudini che ci portiamo dietro, insomma, avere dei punti di riferimento di questa qualità, di questa eccellenza sotto casa e cibarsi di questo, mi sembra proprio un segno. È vero, ci porta anche per questo incidente, insomma, del Covid, di percorso che noi abbiamo nella nostra vita, dobbiamo prendere il più possibile le cose belle, e da qui può rinascere anche una parte di prodotto italiano, di economia italiana e di marchio italiano identificato, per cui credo che da questa situazione si possa veramente ripartire con quelle che sono le cose più fresche e le cose del territorio che poi fanno distinguere tutti noi. Certo, a proposito di cose del territorio, Piero, tu sei nato a Bra. E quindi sei presidente della Fondazione Slow Food per la biodiversità ormai da quasi da 16 anni, e la settimana prossima noi ci occuperemo di tartufo bianco, insomma, come dacci degli exit poll, raccontaci il livello di adrenalina, di elettricità positiva che c'è e che annata sarà. Sarà un'annata buona, pare, poi alla fine non sono sono mai buone, così i prezzi salgono, no? Cioè, certo. La regola è quella. Se ti dicono che ce ne tanti, dici, ma allora perché ti devo pagare 400 euro al chilo? Ma insomma, quindi quest'anno pare sia un'annata buona, ma qui c'è il problema che se richiamiamo tutti i tartufi d'alba, c'è qualcosa che non quadra, perché i tartufi arrivano anche da fuori, c'è poco da dire. Cioè, qui la zona di Alba è tutta vigneto, e dove c'è il vigneto il tartufo non c'è. Quindi ci poniamo un po' questo problema, no? Certo. Poi arriva da nord, arriva dall'est, arriva dall'Umbria, arriva dalla Calabria, insomma, il tartufo è un po' una merce preziosa che gira un po' come il bitcoin. Non ha... Certo, con delle quotazioni che non sono molto dissimili a quelle del bitcoin, però devo dire con un gusto diverso, nel senso che con il bitcoin ci si può anche arricchire, ma come si gode col tartufo, credo che non ci siano... Non si discute, è un grandissimo prodotto straordinario, e poi la grande capacità che c'è ad Alba e nei dintorni di saperlo usare bene, perché il tartufo bisogna saperlo usare con gli abbinamenti giusti, non basta dire metto il tartufo ovunque, il tartufo va messo su alcune cose e su alcune cose si esalta. E la salsiccia di Bra? Sì, qui abbiamo una tradizione straordinaria di gastronomia, c'è poco da fare. Mi sta venendo una fame. È bastato vedere che sei nato a Bra, ma è venuta già fame, è partita così. Ricordiamo il grande appuntamento perché la biodiversità, insomma, dare un valore di biodiversità a delle specialità come quelle che abbiamo la fortuna di avere in Italia è veramente qualcosa di importante da tutti i punti di vista. Uso una parola forte, anche politico, ma nel senso più alto del termine, proprio di gestione della vita umana e della vita, della salute, della passione delle persone, quindi insomma in bocca al lupo ovviamente per questa iniziativa, grazie per il lavoro che fate, grazie a Piero Sardo. Adesso Oldani con topinambur, maggiorana, filetto di vitello e salsa al grana padano, vai! Perfetto, allora per 4 persone, per il filetto puliamo 350 grammi di filetto di vitello e tagliamo in 4 porzioni, piccole rondelle di filetto, in una padella li facciamo arrostire con 40 ml di olio di semi di girasole, perché non ho bisogno quell'intensità del profumo dell'olio extravergine d'oliva, li rosoliamo da entrambi i lati, li facciamo cuocere più o meno per 4-5 minuti per lato, li saliamo leggermente, dopodiché li leviamo e li facciamo riposare per una ventina di minuti. Riscaldiamo in una padella 50 grammi di burro, teniamo al caldo e insomma li conserviamo leggermente. Invece per il topinambur li sbucciamo più o meno 200 grammi per 4 persone, tagliamo a cubi di mezzo centimetro più o meno, li disponiamo su una placca con 30 ml di olio extravergine d'oliva, un leggero tocco di sale, un pizzico di zucchero ce lo metterei e alcune foglie di maggiorana appena appena, giusto per dare quel sentore profumato. Li inforniamo a 130-140 gradi per 20 minuti, quindi una cottura molto delicata. Invece per la salsa portiamo a bollore 150 g di latte, addensiamo con 2 g di maizena diluita naturalmente e in precedenza con acqua fredda, togliamo dal fuoco e aggiungiamo 30 g di grana padano grattugiato. Io starei sul grana padano che va dai 22 ai 24 mesi, quindi una riserva, regoliamo di sale, anche qui un pizzico di zucchero e teniamo da parte. Invece è molto semplice, per la finitura mettiamo i filetti nel centro del piatto, poi i topinambur e infine la salsa, la nostra salsa al grana. Qui abbiamo un esempio quasi di piatto unico, dove c'è la particolarità del grana, del formaggio abbinato appunto a una carne. Se volessimo chiudere magari con un tocco dolce potremmo aggiungere magari alcuni piccoli pezzettini di un'arancia tagliata a vivo, giusto per dare quel senso di acidità e di leggerezza in più. Mi sembra perfetto, mi sembra tutto chiaro e tutto meraviglioso. Fra poco ripartiamo, ci sono gli SS Soldani, vi ricordo il numero 349-239-0191, abbiamo ancora ospiti, abbiamo ancora una ricetta, fra poco. Mangia come parli. Allora, fra poco gli SOS Soldani. Vogliamo farli subito gli SOS Soldani? O vogliamo dire altre due cose sul topinambur? Dai, allora, ma questa somiglianza col carciofo c'è? E soprattutto, ho letto che 100 grammi di topinambur cotto apportano al nostro organismo quasi 3 grammi di fibre, quindi Insomma, è un prodotto che ha una sostanza, un valore nutritivo anche molto molto forte. Assolutamente sì, però giusto per giocare un po', l'unica cosa che ha di uguaglianza con il carciofo è che sono tutti e due abbastanza brutti, sai quando si dice sei un carciofo, sei un topinambur, quindi lo stesso discorso. No, a parte gli scherzi, assolutamente sì, nella cucina, come diceva, affermava anche Marco Sacco, è diventato veramente uno di quegli ingredienti importanti da lavorare in questo periodo e un po' nell'inverno, perché ha un utilizzo del 100% del prodotto. Scusatemi se ribadisco questa cosa, però abbiamo bisogno di fare una cucina più etica, una cucina non del risparmio, ma una cucina che abbia senso. E questo, ripeto, è uno di quegli ingredienti in cui non c'è una parte che viene scartata. Ed è anche per quello che questo prodotto è molto buono, a parte il gusto che ha, il profumo di carciofo e la delicatezza che ha in sé. Va bene, SOS Oldani, poi arriva anche Ciccio Sultano fra poco. Vai, SOS Oldani, vai. SOS Oldani. Adele da Pavia. Sì, buongiorno chef, io avrei un quesito. Sono stata in Val d'Arno qualche mese fa e ho mangiato in un ristorante della zona delle fantastiche frittelle di ricotta di pecora. Ho provato ad estorcere al proprietario la ricetta delle frittelle, si è lasciato scappare l'utilizzo della maizena e volevo sapere se ha qualche suggerimento rispetto alle proporzioni della ricotta di pecora. Lui diceva ricotta di pecora, uova, e mia nonna ci metteva la maizena. Aspetto la sua opinione, grazie mille. Dove c'è maizena c'è Oldani, vai. Guarda, io direi su 200 grammi di ricotta di pecora, sto facendo la ricetta così un po' veloce, metterei 60 grammi di albume d'uovo frullati con la ricotta di pecora, io 5 grammi di farina, una farina di grano duro potrebbe andare bene, sale, pepe, un po' di noce moscata, e dopodiché farei raffreddare per bene, farei poi queste frittelle magari passate, impanate leggermente e poi fritte. Grazie alla Taranto. Ciao chef, sono Grazia e chiamo da Taranto. Volevo chiederti se la melanzana è amara è a causa della melanzana datata oppure dipende da come è stata cucinata? Grazie. Grazie della domanda. Vorrei dire, se la melanzana è perché è datata, sicuramente non prende l'amaro, ma prende un'altra forma di gusto, per cui credo sia solamente una questione di forse un po' non ancora matura per essere mangiata, per questo motivo risulta leggermente amara la buccia. Giovanni da Siziano. Ciao chef, quando filtro una fonduta di formaggio, come posso utilizzare il residuo che resta nel colino? Mi suggerisce un modo per non buttare quel formaggio che avanza? Grazie mille. Allora, quando c'è il residuo nel colino vuol dire che non è stata fatta bene la procedura della fonduta. Quando c'è da fare una fonduta un po' più veloce, anziché fare la classica piemontese col tuorlo d'uovo, io la farei con un goccio di latte, la addenserei leggermente con pochissima maizena diluita con acqua fredda a parte, e poi fuori dal fuoco aggiungerei la fontina che si scioglie più o meno a 70 gradi. Se la fate in questa maniera vedrete che quando verrà filtrata, o probabilmente non ci sarà neanche bisogno di filtrarla perché non ci saranno grumi. Bene, chi vince il libro? La frittella forse, che ma il libro secondo me è la domanda che mi ha fatto riflettere un po' di più, anche dando una piccola ricetta. Io direi Adele da Pavia. Adele, perfetto. Se sei d'accordo. Sono d'accordo. Adele da Pavia, quando ho sentito la frittella di ricotta mi sono quasi commosso, così come mi commuove la presenza di Ciccio Sultano. Come stai? Salve, bene, tutto bene. Ristorante Due Stelle, Michelin, Duomo di Ragusa, Ragusa, Ibla, quell'angolo meraviglioso di mondo, il sud-est della Sicilia, che luogo straordinario. Che si mangia in autunno, ottobre, novembre, dalle vostre parti? Che si mangia? Beh, ancora abbiamo il ricordo dell'estate molto vicino, perciò. Però ci mancano i funghi, c'è qualche fungo di carrubo che arriva qua e là. Iniziamo a mettere qualche pentola calda sul fuoco, qualche brodo, qualche zuppa. A scaldarci un po'. Sì. Però l'estate è sempre con noi, eh? È sempre, io sono. Sì, la Sicilia sino a novembre-dicembre, nella zona costiera ci sono picchi di 20 gradi, 18 gradi, 22, quindi dire che ancora siamo lì con il freddo, no, però che iniziamo a fare noi al ristorante qualche cappuccino di funghi, certo, e ostrica, perché l'ostrica è la malinconia che ci porta all'estate, dunque questo sapore di mare, e invece la zuppa di funghi calda con marsala e schiuma di latte e caffè ci riporta tra il mattino e quello che è l'ottobre. Ma c'è Claudia Schiattone con Ferronato che fa delle facce estasiate di fronte alla di fronte a questa elencazione meravigliosa di cose fantastiche. Chef Davide, nella tua nuova carta ti seguo sui social, ti seguo perché sei naturalmente un mio amico, ma un grande della cucina italiana. Nella prossima carta, se ti dovessi dire topinambur, cosa dici? Metterai un piatto? Hai un'idea? Dici lo usavi, perché so che lo usavi qualche anno fa. Sì, noi li chiamiamo patacche qui in siciliano, i topinambur. Topinambur, che poi è il nome che a me piace tantissimo, è Carciofi di Gerusalemme. Certo. Nome molto affascinante che ti porta un po' a una parte del mondo. Quindi essere trasportati da questo tubero bitorcioluto, tutto quasi malforme, che invece noi ci abbiamo fatto anche il polipo al carbone con burrata, topinambur insalata con aceto e menta, e poi il topinambur ovviamente sottili, tagliati, croccanti a chips messi sopra, proprio per una questione proprio di acustica del piatto. Senti, poi un altro è proprio bollito, svuotato, dopodiché friggiamo proprio tutta la buccia, che diventa croccante, diventa un piccolo contenitore che, riempito dello stesso topinambur a purea, diventa qualcosa di straordinario. Che comunque i patacchi, noi facciamo anche le focacce con la seppia o col baccalà e il topinambur, cioè le scacce impanate, che lì partiamo dalla dominazione spagnola borbonica. Grazie a Ciccio Sultano, spero di venirti a trovare presto, c'ho veramente grande voglia di viaggiare, di Sicilia e di quei profumi che sanno di Mediterraneo, di estate e di vita. Chiudiamo con l'ultima ricetta, che è topinambur alla senape, trota in salagione e fave di cacao. Prego. Scusami, crostini, io sono bollito, l'abbiamo fatta prima. Facciamo i crostini, infatti, di topinambur, maionese, capperi, olive, perdono. Cuociamo 200 grammi di topinambur in una bacinella. Questo è un metodo un po' futurista, ma anche attuale, quindi l'utilizzo del microonde, visto che non l'abbiamo mai utilizzato, diamo un suggerimento anche di questo. Sono 200 grammi di topinambur messi in una bacinella, naturalmente, che possa entrare nel microonde, può essere in vetro o in plastica, con 100 ml di acqua, che copriamo leggermente, copriamo con una pellicola alimentare e cuociamo per 6 minuti al massimo da 800 watt nella temperatura del microonde. Togliamo dal microonde, tagliamo a metà il nostro topinambur, recuperiamo la polpa e mettiamo ad essiccare le bucce a 70 gradi per circa 3 ore. Per poi friggerle e regolarle di sale, per cui abbiamo questa chips molto croccante che teniamo a parte. Mentre invece cosa facciamo con la polpa? La emulsioniamo con 40 ml di olio, io farei anche in questo caso un olio più delicato, un olio di semi di girasole, il succo di mezzo limone più o meno e un pizzico di sale, anche qui un pizzico di zucchero, ottenendo naturalmente una maionese. Allora, per concludere, la finitura del nostro piatto sarà di prendere queste nostre bucce molto croccanti, molto irregolari, le farciremo con un po' di questa maionese, un cappero per ogni piccolo pezzo di buccia farcita, 30 grammi di olive nere, anche queste denocciolate, disidratate leggermente, e poi un tocco di zucchero al velo posizionato sopra, poi se vogliamo le mettiamo in forno ad essiccare ulteriormente, le serviamo così come chips con su una maionese molto croccante, molto morbida e cremosa. Beh, mi sembra fantastica. Sei pronto per la prossima settimana? Poi tartufo bianco settimana prossima, mi raccomando. Assolutamente, la mia passione, la mia passione, tartufo bianco e in questo momento è da fare. Assolutamente. Va bene, alla prossima, grazie a tutti. Ciao chef, ciao.